Ciao. Ti piacerebbe ascoltare una bella storia, vero? Sì. Io ne conosco tante. Adesso ti racconto una fiaba. La fiaba si intitola La cosa più incredibile e parla di fatti straordinari e della cosa più incredibile mai vista al mondo. Ecco arrivano gli eroi, sono più forti di un cowboy. Ecco arrivano gli eroi, sono qui solo per voi. Per fare una fiaba ci vuole... Ci vuole un castello, un grillo con l'ombrello, un gigante intrigante, una fata assai paziente, una fuga imprudente, un finale sorprendente. Ecco arrivano gli eroi, sono più forti di un cowboy. Ecco arrivano gli eroi, sono qui solo per voi. Un tempo lontano, in un lontano paese, il re organizzò un concorso a premi. Per il vincitore era in palio il matrimonio con la figlia del re e la metà dell'intero reame. Per ottenere i premi bisognava fare la cosa più incredibile. Ogni uomo del regno desiderava sposare la principessa e conquistare tutta quella terra. Provarono tutti a inventare qualcosa di incredibile. Venne il giorno della gara. La giuria che doveva scegliere la cosa più incredibile si riunì nella piazza più grande del reame e vide tante cose incredibili. Ma non era difficile accorgersi che la più incredibile tra le incredibili era un orologio. Quando suonavano le ore, si apriva uno sportello e uscivano strani personaggi, pupazzi perfetti, che sapevano muoversi e parlare. Quando suonò l'una, la folla si lasciò sfuggire un lungo oh di meraviglia. Era apparsa una figura barbuta, con una lastra di pietra in mano. Sembrava uscita dritta dritta dalle pagine della Bibbia, invece che dall'orologio. Tra la folla c'erano anche un uomo con la pipa tra i denti e la sua bionda figlia, che fece anche lei... Hai visto, figlia mia? Sai chi è quel personaggio uscito dall'orologio? È Mosè con la tavola della legge. Perché Mosè? Perché Mosè, papà? Ha la tavola della legge. E sulla tavola è inciso il primo comandamento. Il primo, cioè il numero uno. E l'orologio ha suonato l'una, capisci? Ma sono quasi le due. Ecco, ecco, battono le due. Le due figure sono uscite dall'orologio. La biondina... Ti somiglia un po', figlia mia. Lasciami indovinare, papà. Lascia che lo dica io. Dunque, la biondina segue un ragazzo che sorride. E il suo sorriso è il primo sorriso del mondo. Adamo ed Eva. Bene, figliola, perché non andiamo a casa adesso, eh? Ma papà, sono quasi le tre. Stiamo a vedere, ti prego. Uno, due e... magi, i tre re magi. Oh, bene, questa è davvero la cosa più incredibile che ho mai visto in vita mia. Sono sicuro che quando suoneranno le quattro... No, papà, non dirmelo. Non rovinarmi la sorpresa. Le quattro stagioni. La primavera tiene in mano un rametto e sul rametto c'è un uccelletto. L'estate ha tra le dita una spiga di grano dorato e sulla spiga c'è una cavalletta. L'autunno porta un grappolo d'uva e l'inverno ha un corvo sulla spalla, un corvo parlante che racconta quelle belle storie antiche, le fiabe. Le quattro stagioni. Oh, come passa il tempo! Sono già quasi le cinque. I cinque. Non capisco, papà. Ah, sono i cinque sensi, figliuola. Vedi? Ah, sì, vedo. La vista è un vecchio costruttore di occhiali. L'udito, un calderaio che batte con il martello sulle sue pentole. La fioraia. Ah, la fioraia è l'olfatto. E il gusto è un cuoco. E il tatto ha gli occhiali scuri. Però non sono occhiali da vista. Il tatto vede, non con gli occhi, ma toccando la superficie delle cose. Che meraviglia! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, sei, sempre sei! Il personaggio delle sei è un giocatore d'azzardo. E i suoi dadi danno sempre il punteggio massimo, un doppio sei. Ingegnoso davvero. Scommetto che il costruttore di questo orologio vincerà il premio del re. Allora, non vuoi più tornare a casa, papà? Beh, ormai sono le sette. Giorni della settimana, vero papà? No, figlia, no! Sono i sette vizi capitali. Io non so bene che cosa siano i vizi capitali, ma questi mi sembrano proprio i giorni della settimana. Lunedì ha la luna sul cappello. Martedì è un tipo bellicoso, come il dio Marte, dal quale prende il nome. Poi c'è una faccia di sole che pare proprio una sorridente domenica. Poi anche la gente dice che sono i giorni della settimana. Discutendo, sono ormai le otto. Otto, come otto monaci che cantano il vespro delle otto. La mia pipa è spenta da ore e lo stomaco vuoto comincia a protestare. Sono già le nove. come bellissime fanciulle cantano e danzano. Le muse, sono le muse! Conosci il loro significato e i loro nomi, vero? So che le muse sono un po' come delle fate, che proteggono le arti e le scienze. Ma i nomi? Un momento. Il maestro di scuola si fa largo tra la folla e presenta le muse. Persicore, musa della danza. Urania, musa dell'astronomia. Clio, musa della storia. Talia, musa della commedia. C'è troppa confusione. Non riesco più a sentire gli altri nomi. Oh, che spettacolo, che spettacolo! Tu lo sai perché? Mosè ha la tavola delle leggi con sé. E la tavola ora è completa. Sono 10 le leggi. I 10 comandamenti. Ah, gli altri concorrenti possono ritirarsi. L'orologiaio ha ormai la vittoria in tasca. Ah, sai come si dice? Alle 11 si aprono le vie del paradiso. E sono 11 giovani ballerini canterini che volteggiano ripetendo: alle 11 si aprono le vie del paradiso. Zitti adesso! Stiamo in silenzio ad attendere la mezzanotte. Che cosa accadrà a mezzanotte? Quale prodigio ci riserverà ancora questo incredibile orologio? Si sono aperti gli sportelli dell'orologio ed è uscito un guardiano notturno. Porta la stella del mattino in cima ad un bastone. Hai sentito, figlia mia? Era l'antichissima canzone dei guardiani della notte. Nostro Signore nacque a mezzanotte. Guarda, papà, guarda! Intorno alla guardia notturna volano testoline d'angelo che pagano rosellini. Mi viene da piangere e sono felice. Tutti dormirono felici quella notte e il giorno dopo accorsero in piazza per la proclamazione del vincitore del concorso del re. L'esito era scontato. La giuria proclamò vincitore il costruttore dell'orologio, l'autore della cosa più incredibile. Gli spettavano in premio la mano della principessa e metà dell'intero regno. La principessa lo vide e fu felice di diventare la sua sposa, perché l'orologiaio non era solo bravo, era anche bello e buono. Ma tra tanta esultanza... Tra Tra tanta esultanza qualcuno gridava, protestava, urlava. Era un uomo brutto e ripeteva che stava per farla lui la cosa più incredibile. Non era solo una minaccia, l'uomo che gridava aveva un'accetta. Si lanciò contro l'orologio e lo fracassò. Cadevano pezzi di ingranaggio, si frantumavano le figure delle ore e la folla incredula non fece in tempo a intervenire. È incredibile! Distruggere un così bello orologio! È la cosa più incredibile che si sia mai vista! E quel che è peggio è che anche i giudici dovranno riconoscerlo. Quest'uomo violento vincerà il premio del re perché ha fatto la cosa più incredibile. Riceverà metà del reame e sposerà la principessa, povera lei, povero regno e poveri tutti noi. Così accadde. Andò proprio così. Il distruttore fu proclamato vincitore. Si organizzarono subito le sue nozze con la principessa. La gente si riunì per assistere al matrimonio, ma l'atmosfera non era per niente festosa. Solo lo sposo, dritto e spavaldo accanto alla sposa, si godeva la scena. Improvvisamente. Papà, papà, sta succedendo qualcosa. Chi sono quelle strane figure zoppicanti che vanno incontro agli sposi? Sembrano... Sì, figliola, sono loro. Sono i personaggi dell'orologio. Ecco Adamo, Eva, le muse. Ci sono tutti, ma sono tutti rotti. Eppure, anche con i meccanismi in pezzi, riescono a muoversi. Riescono ancora a camminare e circondano lo sposo. Rimproverano aspramente l'uomo cattivo che ha rovinato il loro incredibile orologio. Ma l'uomo cattivo ascolta senza sentire. Spavaldo. Ah, le figure stanno crescendo. Diventano grandi, enormi, immense, gigantesche per schiacciare il distruttore sotto alle sue responsabilità. Dodici rintocchi, la mezzanotte. Il guardiano di notte ha alzato il suo bastone con la stella del mattino sulla testa dello sposo indegno. Oh, lo sposo indegno, l'uomo cattivo, il distruttore, è crollato sotto i colpi! È caduto, è stato punito! Le figure dell'orologio rimpiccioliscono, fino a sparire! Oh, sono sparite! Hanno compiuto la loro missione, hanno dato la lezione! Ah, non si deve, non si può distruggere quello che è stato creato con genialità e amore, come ha fatto il grande artigiano delle ore. Non si è mai vista cosa più incredibile di questa. La principessa esulta. Sarà l'orologiaio il suo sposo. Così fu. Il fabbricante dell'incredibile orologio vinse il premio promesso dal re, sposò la principessa e ottenne metà del regno. Nessuno invidiò gli sposi, ed è proprio questa la cosa più incredibile. Se il premiato non è invidiato, se il premiato è anzi ammirato, è incredibile! È incredibile! Perché il premiato ha conquistato il gran premio sempre sognato, quello d'essere da tutti amato. È incredibile! È incredibile!